raccontato di una storia del mio paese poco nota che è dei contadini una rivolta che all'arroganza del vassallo e del re si ribellarono riunendosi uomini e donne sotto la corte. Le tasse ingiuste erano troppe, le mani per pagarle rotte. Ci prete già da scusa, tutto paga come te ne ma fa, tutte le urne ste ma fa via, e poi la sera niente da magna, non ci spaccamme la schiena, chiedete un cambio sulla recampa, ma un campa non ci facete, perché le tasse che potete, ma come usate voi zotti. Venire qui con banghe e zappe, andate via se non volete che venga il vassallo con le guardie del re. Se non volete morire qui, tornate via alle vostre case, o le vostre bocche affamate verranno chiuse dal vassallo del re. Levate la mietza, levate prete, nuvate non tenete niente da prete, nu aspettam gli abbate a isso complete, la risoluzione di questa questione. Levate la mietza, levate prete, te non vedete ma niente da me. Ma io attenzione sta arrivare a Bari, ma c'è sta il vassallo del re, che le guardie non mi pare che ci vuoi scutare, chi se ci vuoi caccia, non ce ne amo prete, sai perché non è niente più da perdere. C'è spade contro zappe, mi sono prete con mostaggio. E frecce e spade contro zappe, mi sono prete con martire. E la storia finisce, come finisce? Prete morto, ammazzato ed i contadini travolti ed uccisi in mezzo alla corte, dove eran per chieder la terra e non per far guerra. E la storia finisce col prete e la gente, carnefici vittime dell'arroganza del re.